Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa e da Michele in regia. Buonasera Michele, grazie per il tuo supporto questa sera. In collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa, buonasera cari amici ascoltatori. Dunque, cari radioascoltatori, questa sera commenteremo con il nostro ospite gli avvenimenti, quanto è avvenuto tra Siria e Turchia la notte scorsa, la tensione di nuovo salita, 5 persone sono rimaste uccise, 13 ferite da colpi di mortaio sparati dalla Siria e caduti in territorio turco, in un villaggio nella provincia sudorientale di Sanliurfa, che ospita la maggior parte dei profughi siriani. In seguito all'attacco la Turchia ha colpito a sua volta obiettivi in Siria. Nella notte di ieri diversi soldati siriani sarebbero rimasti uccisi in un bombardamento al confine. Il Consiglio Atlantico della NATO si è riunito ieri notte, ha condannato questo atto di aggressione e riaffermato la propria solidarietà verso la Turchia. Questa sera con il nostro ospite discuteremo delle implicazioni di questi ultimi sviluppi sulla guerra nella Siria, in Siria stessa e per quanto riguarda l'approccio della comunità internazionale. Ne parliamo questa sera con un ospite che è già in collegamento da Beirut con noi, si tratta di Lorenzo Trombetta. Lorenzo, ci senti? Sì, di solito forte e chiaro. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro last minute invito. Lorenzo Trombetta è collaboratore all'ANSA a Beirut, è corrispondente della rivista di geopolitica Limes per Siria e Libano, scrive inoltre per La Stampa e L'Avvenire. Lorenzo ha inoltre collaborato con Radio e Televisione Italiana, Svizzera Italiana. Il suo libro Siria nel Nuovo Medio Oriente è uscito nel 2005 per Editori Riuniti. Lorenzo, oggi su Limes scrivevi: non ci sarà alcuna escalation militare fra Turchia e Siria. Dopo i colpi di mortaio sparati dal lato siriano, la risposta di Ankara è stata limitata nel tempo e nello spazio. Un fuoco di risposta, quasi a dire non possiamo non dire nulla. Non ci sarà dunque nessuna escalation? No, per fortuna la previsione di stamattina si è rivelata poi nel corso della giornata sempre più realistica, corroborata dalle varie affermazioni delle più alte cariche turche, ultima in ordine di tempo quella del premier Erdogan, che circa un'ora e mezza fa ha dichiarato che la richiesta ottenuta stamani dal Parlamento turco di effettuare eventuali operazioni militari oltre confine, quindi in Siria, questa richiesta è stata fatta come deterrente e non perché sia intenzionata ad aprire un altro fronte di guerra. Questo Erdogan, che insomma è uno dei più importanti decisori nel sistema politico turco, ed era quello che subito dopo il primo attacco di mortaio letale per 5 persone in Turchia aveva richiesto l'intervento urgente della NATO sotto forma di una riunione straordinaria a Bruxelles e poi la mattina dopo una riunione plenaria dell'Assemblea del Parlamento turco. Ecco, quindi diciamo, la retorica sicuramente ha visto dei toni molto accesi, molto, molto forti da parte turca, però poi di fatto sul terreno anche la risposta è stato sparato uno o due colpi contro una postazione di soldati siriani. Le fonti che abbiamo noi in Siria ci dicono che sono 3 i morti tra i soldati governativi siriani, quindi sempre ovviamente nella tragedia di queste notizie, però guardandole da un punto di vista più regionale, di fronte a una guerra che sembrava essere imminente, ecco, oggi possiamo dire che le parole e i fatti dimostrano che non ci sarà nessuna escalation. Lorenzo, il Corriere della Sera scrive che non è chiaro al momento quale delle due forze belligeranti in Siria sia responsabile dell'incidente di mercoledì. Il governo siriano ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Sicuramente sono avvenimenti su cui bisognerà fare luce, ma secondo te quali le motivazioni dietro a questo attacco. Qualcuno ha voluto mandare un segnale alla Turchia, forse. Tu che cosa ne pensi? Ah, prima di tutto bene fare chiarezza, perché nel corso della giornata il governo turco ha detto ufficialmente che tramite le Nazioni Unite ha ricevuto le scuse ufficiali di Damasco. Questo significa che se Damasco si è scusata, in parte ha ammesso di aver sparato il colpo. Alcuni dicono no, può essere scusata perché il colpo è comunque partito dal suo territorio ed è responsabile della sicurezza di ciò che avviene nel suo territorio. Poco dopo il ministro degli esteri russo Lavrov, che è uno dei principali sostenitori del regime di Damasco, ha detto: ho avuto rassicurazioni da Damasco che questo incidente non si ripeterà più, che è stato un errore tragico di Damasco. E ha detto Lavrov: spero che i siriani affermino questa cosa in modo ufficiale. Quindi di fatto i russi e i turchi hanno detto che i siriani si sono scusati, ovviamente non l'hanno fatto pubblicamente, ma i siriani hanno ammesso che il colpo di mortaio è stato sparato da una loro postazione governativa, quindi non da parte dei ribelli o dei terroristi. Questo tanto per cercare di ricostruire, no, nelle parole dei vari diplomatici, una situazione che se dovessimo stare soltanto con i mezzi di informazione siriani sarebbe stato molto difficile ricostruire, perché le ultime parole del governo siriano risalgono a ieri sera. Il ministro dell'informazione, portavoce del governo, aveva detto appunto, come avete ricordato voi da studio, apriremo un'inchiesta, e poi aveva nominato dei terroristi, aveva nominato addirittura Al-Qaeda, alludendo quindi all'eventualità che fossero stati dei gruppi armati di non chissà quale natura ad aprire il fuoco. Quindi, per rispondere poi alla domanda quale messaggio, a volte, sai, noi nella politica tendiamo dall'esterno a cercare per forza delle ragioni anche a lungo termine. A volte è così, a volte può essere semplicemente che, visto che quella è una regione dove si combatte, perché il villaggio di Tal Abyad in Siria, che è frontaliero rispetto a quello di Açkale, che è in Turchia quello colpito, a Tal Abyad da 2 settimane i ribelli sono riusciti a prendere il posto di frontiera, e ovviamente le forze governative cercano di riconquistare quella postazione strategica. Quindi, visto che entrambe le parti hanno i mortai e comunque hanno vari tipi di armi, è possibile che nello scontro quotidiano che si verifica anche in queste ore un mortaio sia andato dall'altra parte, abbia colpito quella casa e abbia ucciso quelle 2 signore e quelle 3 bambine. Non credo che ci sia stata una volontà di una delle 2 parti di lanciare un messaggio verso la Turchia. Dunque, in realtà, secondo te si tratterebbe semplicemente di un errore? Sì, che vuol dire in questo, per come sta andando la guerra in Siria, anche per il tipo di belligeranti che si stanno affrontando, l'errore secondo me è più che plausibile. Un altro esempio: 2 giorni fa, ma nessuno ne ha parlato perché è una notizia che non ha avuto la stessa ampiezza, non ha avuto evidentemente lo stesso impatto emotivo e politico, dei colpi di mortaio sono caduti sul Golan siriano, ma occupato da Israele, di fatto in territorio israeliano. Ieri sul Monte Hermon, località sciistica israeliana, che è sempre il Golan occupato siriano, i turisti sono stati mandati via, sono stati sgomberati perché c'erano timori che altri mortai potessero cadere. In Giordania, un mese fa, una bambina è stata ferita gravemente per un colpo di mortaio caduto su una casa in Giordania, però sparato dal territorio siriano. Sono incidenti che ormai in una guerra dove si usano questo tipo di armi capitano sempre più spesso. Nel caso turco abbiamo avuto una reazione turca e quindi siamo stati tutti appresso a cercare di capire se stavamo sull'orlo di una guerra medio orientale. Però ecco, dobbiamo secondo me considerare il contesto e ricordarci anche della cronologia degli eventi di altri scenari. Quindi non credo ci sia stata una volontà siriana di tirar dentro la Turchia o i ribelli o la Siria, anche perché, non voglio anticipare eventuali domande, però a questo punto è bene dirlo, quella regione siriana ci sono dei ribelli che sono curdi, che per quanto non amino il regime di Damasco non amano nemmeno vedere troppo le divise turche. Conosciamo la la difficoltà tra questi due popoli, e non solo perché sono del PKK separatista, ma perché sono delle milizie curde che comunque, certo, non amano la politica di Ankara nei confronti della minoranza curda. Quindi anche lì, per i ribelli curdi, vedersi domani entrare decine, centinaia di soldati turchi, certo non credo che sia una cosa auspicabile. Ecco perché credo che nessuno delle tre parti coinvolte in questa storia, esercito governativo siriano, ribelli turchi e arabi, curdi arabi, scusate, e governo turco, non credo che nessuno di questi tre abbia interesse a far salire la tensione ulteriormente. Nessuno ha interesse a far salire la tensione, però ricordiamo che la Turchia ha avuto già nel recente passato un altro incidente con la vicina Siria. Parlo del jet che è stato abbattuto da un missile terra aereo sparato dalla Siria. Mi sembra di capire che la Turchia stia comunque facendo prova di molta pazienza, perché, come ritornando al tuo articolo di oggi, dici la Turchia non vuole entrare nel ginepraio siriano. Perché, insomma. Sì, in quel caso, per esempio, a giugno la violazione, l'attacco era stato molto più grave, se vogliamo, da un punto di vista militare. Pensate voi, un missile terra-aria sparato a una posizione dell'esercito siriano in Siria ha colpito deliberatamente un aereo di un altro paese che viaggiava in una zona internazionale, spaziale internazionale. Questa inchiesta, il risultato di questa inchiesta, che era in uno spazio aereo internazionale che è stato un missile siriano, è stata diffusa 2 settimane fa dallo Stato Maggiore turco, ma la Siria non ha smentito, quindi deduciamo che è una ricostruzione che la Siria accetta, e quindi se la Siria ammette implicitamente di aver sparato un missile e la Turchia non reagisce, perché di fatto quei due piloti che sono morti lì sono, non si sa più dove sono, e la Turchia non ha fatto nulla in concreto, è evidente che la Turchia non ha intenzione, per i calcoli politici, non perché chissà che, non perché Erdogan è paziente, semplicemente perché hanno bisogno di ponderare ogni azione, perché comunque entrare in guerra nella Siria di oggi significherebbe un impegno di risorse, un impegno umano, un impegno politico, forse troppo dispendioso e troppo rischioso per la politica, perché poi ricordiamoci che per fortuna in Siria non accade, ma in Turchia sì, sono dei politici che devono rispondere a degli elettori, e tra poco anche in Turchia ci sarà un nuovo appuntamento elettorale, quindi il politico, come da noi accade in Italia, insomma, spesso le questioni di politica internazionale hanno dei riflessi ben più domestici, interni, e quindi Erdogan è un uomo politico e deve fare i conti con tutta questa situazione. Lorenzo, vista la situazione attuale, secondo te che cosa potrà determinare una svolta per quanto riguarda la situazione in Siria? Quindi mi riferisco al fatto che la comunità internazionale non pare avere molto, come dire, appetito ad un intervento in Siria. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU è diviso, conosciamo benissimo la posizione di Russia e Cina, i ribelli non appaiono un chiaro interlocutore, quindi è una situazione che ormai si protrae da tantissimi mesi. Ecco, secondo te che cosa può succedere per far sì che questa situazione si sblocchi in un senso o nell'altro? Allora, parliamo di un'ipotesi poco realistica, purtroppo, però l'unica via, credo, sarebbe quella da parte dell'Occidente, di includere la Russia veramente come partner di un compromesso. La Russia sostiene la Siria, e se la Russia smettesse di sostenere il governo di Bashar al-Assad, credo che la svolta ci potrebbe essere anche nel giro di poco tempo, perché dobbiamo coinvolgere la Russia e tranquillizzarla, perché la Russia si gioca tutto sulla Siria per i suoi interessi strategici nel Mediterraneo, nel Medio Oriente, quindi se qualche politico occidentale illuminato e anche con una forte capacità decisionale, quindi non credo qualche leader europeo, ma mi riferisco a un eventuale presidente americano, per esempio, riuscisse a dire ai russi: tranquilli, voi vi tenete la base militare di Tartus, vi tenete la base aerea di Palmira, i contratti di armi, di vendita di armi, ve le mantenete anche nel dopo Assad, voi rimanete con un piede in Medio Oriente, io credo che i russi nel giro di 24 ore convincerebbero Bashar o chi per lui a smobilitare. Fino a quando invece sulla Siria, sulla questione siriana, tutte le potenze, anche quelle occidentali, vorranno per forza stravincere, e certo avremo questa situazione, la Russia non ha alcun problema a vedere i siriani morire ogni giorno, se l'hanno fatto per 18 mesi continuerà per 36 e per altri 3-4 anni. Quindi l'unica svolta, ma purtroppo non la vedo realistica, perché non credo che il futuro presidente americano possa essere così coraggioso, Obama o chi per lui, l'unica svolta sarebbe di portare i russi a un tavolo di compromesso, ma un compromesso vero, non fittizio. Lorenzo, le stime ufficiali dell'ONU parlano di circa, o meglio dire, oltre 243.000 rifugiati siriani disseminati nei paesi confinanti. Nel Libano, paese dove tu vivi da diversi anni, dovrebbero essercene più di 60.000, sono registrati presso le Nazioni Unite, e circa 25.000 che sono in attesa di essere registrati. Come reagisce il Libano a questo numero di rifugiati che continua a crescere e che molto probabilmente non diminuirà nei prossimi mesi? Ma reagisce in un modo flessibile, per fortuna. È una società abituata, per i suoi trascorsi storici, a più che altro ad essere profugo piuttosto che a ricevere profughi, però questa sua storia la rende di fatto aperta e conscia dei pericoli della rigidità, e quindi nelle varie regioni, perché poi anche qui ogni regione ha la sua storia, in Libano, anche se è un paese piccolo come l'Abruzzo, quindi è un po' un microcosmo, ogni regione reagisce in un modo diverso, però il denominatore comune è che nessuno vuole esasperare le tensioni, nessuno vuole che questi profughi, con il loro carico di odio, di violenza per il regime o altri che invece se la passano meglio e che hanno delle posizioni politiche diverse, nessuno vuole che questi profughi alterino il sistema, il delicato equilibrio libanese, e quindi sia il governo, sia la società civile, la gente, quelli che effettivamente aprono le porte, a volte anche chiedendo degli affitti molto esosi, però alla fine cercano sempre di ricomporre eventuali conflitti che si creano nel quotidiano e più in una situazione di macro, più complessiva. Fino adesso io i primi profughi siriani che ho intervistato venivano da Homs nel maggio 2011, sembra un secolo a pensare a quei tempi, invece raccontano ancora le stesse storie di allora. Eppure da allora ad oggi il Libano è riuscito ad assorbire questa ondata che poteva sembrare letale per un paese così piccolo. Ora certo proseguiranno, aumenteranno, questo aumenterà le difficoltà, però credo che ancora nel medio termine possiamo mantenerci ottimisti. In fondo sono delle terre abituate all'accoglienza nelle estreme difficoltà e nella anche disorganizzazione, perché questo lo dobbiamo dire, nella speculazione, nella disorganizzazione tipica di queste regioni, però il contraltare è un'estrema flessibilità e capacità di accogliere. Ecco, questo è un segnale positivo che mi sento di dire da qua. Un'ultima battuta, Lorenzo, poi purtroppo ti dobbiamo salutare. Come ben sanno i nostri amici radioascoltatori, il Libano è fortemente legato alla Siria per questioni storiche e non solo. La guerra che si sta combattendo in Libia ormai da diversi mesi ha superato il confine, ha delle ripercussioni nella politica e nella stabilità del Libano, oltre a, come citavamo prima, alla presenza non indifferente dei profughi? Anche in questo caso credo che intendessi guerra in Siria, forse ho sentito male, ho percepito guerra in Libia. Comunque, no, scusami, in Siria decisamente. No, ok, anche in questo caso ci si aspettava una tracimazione delle tensioni confessionali. Anche qui i fatti, più che chissà quali analisi geopolitiche, mi spingono a dire che il Libano ha tenuto, che nonostante alcuni episodi sporadici, gravi, ma comunque sempre limitati nello spazio e anche nel tempo, non c'è stata alcuna vera tracimazione in ambito nazionale libanese. Prendiamo la Bekaa, che è il primo luogo dove i profughi siriani arrivano dalla regione di Homs, da quella di Amato. La Bekaa è un mosaico di confessioni più che di popolazioni, perché sono tutti arabi, a parte gli armeni. Ci sono gli Hezbollah, che hanno un forte legame con il governo di Damasco e che sono sciiti, e che certo loro preferiscono ospitare gli sciiti filo regime siriano. Ci sono però delle sacche di sunniti che sono fortemente ostili al regime siriano e che hanno invece ospitato, come dicevo prima, nella disorganizzazione, ma comunque con grande accoglienza, invece le persone che fuggivano da Homs, che è la regione più vicina e quella più colpita dalla repressione. In tutto questo, queste comunità che da sempre vivono insieme, che adesso accolgono le rispettive comunità di riferimento dall'altra parte del confine, che poi è un confine, lo dobbiamo ricordare, molto artificiale per certi aspetti, perché sono due paesi che per secoli hanno vissuto in una continuità territoriale, economica, culturale molto stretta, quindi sono persone e comunità che hanno matrimoni comuni, viaggiano, si spostano continuamente da una parte e dall'altra. Ecco, queste comunità nella valle della Bekaa fino adesso sono rimaste nel loro equilibrio. Io non voglio dire l'armonia, non è bene raccontare un Libano idealizzato dove sciiti e sunniti si abbracciano, no, non si abbracciano, ognuno sta a casa sua, però nessuno vuole creare problemi all'altro e problemi a se stesso, e quindi il fucile a casa, però quando poi esco saluto col sorriso e continuo i miei affari. E questo accade anche oggi. Dopo 18 mesi abbiamo decine di migliaia di profughi siriani che portano il loro carico di divisioni anche confessionali, di racconti, di odi confessionali, eppure il Libano tiene. Questo, ecco, è un altro esempio, un altro miracolo forte di questo paese in cui mi trovo a vivere. Annalisa, hai altre domande dallo studio? No, non ho altre domande, siamo purtroppo giunti al termine del tempo che potevamo dedicare a questo tema e a Lorenzo. Lorenzo, ti vorrei ringraziare per il tuo interessante contributo, come sempre. Un grazie, buon lavoro e speriamo di riaverti presto nostro ospite. Io vi ringrazio infinitamente perché mi date la possibilità di parlare non soltanto della stretta attualità. Grazie, buona serata. Facciamo ora una pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Nella prima parte ci siamo occupati di quanto avvenuto la notte scorsa tra Siria e Turchia, abbiamo quindi parlato di Medio Oriente, ci occupiamo adesso di politica italiana. L'attuale legislatura avrà termine nella prossima primavera. Che cosa succederà dopo? Chi governerà l'Italia e chi siederà come Presidente del Consiglio? Da una settimana Monti, l'attuale Presidente del Consiglio, è possibilista sulla possibilità di ricoprire la stessa carica anche dopo le prossime elezioni, ma non si candiderà. Se le forze politiche lo chiedono, sono disponibili a un secondo mandato. Queste le dichiarazioni di Monti da New York la settimana scorsa. Il governo Monti è un governo tecnico. All'epoca del suo insediamento si era gridato alla sospensione della democrazia. L'impressione è che l'Italia non sia in grado di produrre leaders a livello nazionale capaci di occuparsi del paese. Forse ci sono giovani capaci che non riescono ad emergere? Ne parliamo questa sera con il nostro ospite in collegamento. Il nostro ospite è Massimo Leoni. Massimo, ci senti? Sì, vi sento perfettamente. Grazie. Buonasera. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Massimo Leoni. Grazie a voi. Capo della redazione politica SkyTG24 dal 2003. Si è sempre occupato di economia e finanza, ha scritto per Italia Oggi di economia internazionale e politica economica. Dal 2001 al 2003 inoltre si è occupato di economia, finanza e mercati sulla TV del Sole 24 Ore. Massimo, Annalisa ci trova... Sì, adesso è tutto giusto. Perfetto. Annalisa diceva prima nell'introduzione che siamo con un governo tecnico attualmente, dunque abbiamo Monti, il tecnico, il senatore a vita. Cosa farà Monti in futuro? Casini e Fini sembrano sponsorizzarsi molto questo Monti bis. Alfano dal canto suo dice che nel caso il professore non si candidi, tecnicamente sarebbe inspiegabile che rimanesse al suo posto. Bersani è stato addirittura più esplicito: Monti è una risorsa del paese, ma se vuole continuare senza maggioranza politica gli dico che non è possibile. Cosa ne pensi secondo te? Cosa succederà? Guarda, l'insieme delle cose che tu hai citato fanno pensare che un eventuale Monti bis non sarà sicuramente un governo tecnico e quindi sarà un governo con una maggioranza politica. Il dubbio potrebbe essere se questa maggioranza politica potrà avere o no un colore ben definito, oppure torneremo nell'ambito di quella che ormai tutti, anche a livello internazionale, a cominciare dalla Germania, chiamano grande coalizione, quindi un rassemblement di forze che vanno dai liberali ai socialdemocratici, che in caso di crisi prolungata, e questo probabilmente è il caso, diventa una risorsa per il paese. Quindi un nuovo Monti tecnico sicuramente non ci sarà, e questa già è una prima risposta. Resta da vedere se Monti potrà essere il nuovo Presidente del Consiglio. Tu citavi Bersani ha detto che Monti sarà sicuramente una risorsa per il Paese. Voi sapete sicuramente che noi andiamo incontro a un periodo di ingorgo istituzionale, per così dire, quindi ci saranno le elezioni politiche e subito dopo ci sarà l'elezione del Capo dello Stato. E allora qui il problema è vedere a che si riferisse Bersani quando parlava di Monti risorsa, perché Monti è sicuramente uno dei papabili per la Presidenza della Repubblica, e Bersani, essendo sulla carta diciamo capo del partito che in questo momento nei sondaggi o della maggioranza relativa conduce una partita di tipo assolutamente comprensibile, cioè lui vuole diventare il Presidente del Consiglio, anche se ci sono un po' di ostacoli nel PD da superare affinché questo avvenga. Quali sono le novità nello scenario politico italiano per la prossima legislatura? Una novità senza dubbio rappresentata da Renzi, il sindaco del centro-sinistra di Firenze, che vuole rottamare la politica italiana e fa l'occhiolino agli elettori di centrodestra. Ovviamente c'è Beppe Grillo con il movimento. Gli ostacoli nel PD, e per Bersani parlavo, mi riferivo proprio a Renzi. Renzi è personaggio assai in voga in queste ultime settimane in Italia, molti sondaggi lo darebbero vincente qualora si presentasse in un confronto diretto con Bersani, non per le primarie, i cui elettori, lo sapete, sarebbero soltanto quelli del centrosinistra, ma in elezioni politiche. Cioè i sondaggi dicono che se si presentassero Bersani e Renzi all'Italia e competessero per la Presidenza del Consiglio, molto probabilmente vincerebbe Renzi. Cosa assai significativa, evidentemente. Per Bersani il rischio sono le primarie. Ci troviamo nella situazione molto strana che si indicono e si parla di regole per queste primarie, tra l'altro c'è una discussione molto accesa su questo, non sapendo esattamente con quale legge elettorale noi andremo a votare per le politiche. Si potrebbe dare il caso che una legge elettorale proporzionale che non prevedesse l'indicazione diretta del Premier renderebbe queste primarie assolutamente inutili. E quindi c'è un po' una grande confusione, diciamo, sotto il cielo italiano in questo momento, confusione che viene accresciuta dall'imprevedibilità del risultato, per esempio, dei grillini, il famoso Movimento 5 Stelle, oppure di un PDL che è abituato ad essere la prima forza di questo paese ormai da lunghi anni, è sull'orlo di una crisi molto molto grave, insomma. Dipende da una parte ancora dalle parole di Berlusconi e dalla sua intenzione o meno di scendere in campo, e nello stesso tempo ha delle forze al suo interno che non vedono l'ora che quel meccanismo, diciamo, in qualche modo si disgreghi, e parlo degli ex N da una parte, ma anche di quella parte, diciamo, liberale, ex democristiana, che in quel contenitore si è sempre trovata abbastanza a disagio e vede come sbocco ormai naturale, per esempio, la grande alleanza centrista tra Fini e Casini. Massimo, si parla anche della discesa in campo di Montezemolo, che cosa ne pensi? Ma la discesa in campo diretta di Montezemolo lui stesso l'ha esplicitamente esclusa appena qualche giorno fa. Montezemolo è in campo, sicuramente è uno dei grandi sostenitori, in America si direbbe grandi elettori, di un Monti bis, è sicuramente affine, diciamo, a un'unione dei moderati e sicuramente ha delle idee liberali e moderate, non va granché d'accordo con Fini e Casini, perché li continua ad identificare con la politica vecchia, cosa dalla quale lui con il suo movimento Italia Futura ha preso le distanze fin dall'inizio. Non credo a un suo coinvolgimento diretto, credo che può muovere la sua opinione possa muovere voti e non si può escludere magari un coinvolgimento poi diretto in un governo che segua una certa politica e di società. A seguito dei recenti scandali scoppiati inizialmente alla Regione Lazio, è tornata di attualità e richiesta a gran voce l'approvazione della legge anticorruzione. Da mesi se ne discute, ogni volta che esce uno scandalo legato agli abusi di fondi pubblici l'argomento ritorna a grandi titoli. L'idea è che questo potrebbe essere una panacea che guarisca tutti i mali della malpolitica italiana. Tu che cosa ne pensi e che cosa prevede questo disegno di legge? Guarda, io credo poco alle panacee, quindi non credo che possa guarire una legge e tutti i mali della politica italiana, perché sì, questa legge potrebbe essere anche la migliore possibile, potrebbe intervenire anche sulle cause della corruzione prevenendola, ma qui in Italia c'è un problema, diciamo, innanzitutto culturale, che ha radici profonde e che negli ultimi tempi ha direttamente coinvolto lo stesso meccanismo di selezione della classe dirigente. Quindi una legge di per sé è ovvio che non può risolvere tutti questi problemi. Quello che prevedo è che questa però possa essere la volta buona affinché quella legge sia approvata. Insomma, delle ultime ore, ormai gli emendamenti proposti dal governo e dalla Severino che sembra abbiano messo d'accordo i principali partiti, non è dato sapere ancora se poi il procedimento sarà quello della fiducia sul provvedimento oppure di un libero dibattito, ma insomma mi pare che questa volta questa legge dovrà vedere in qualche modo la luce. D'altra parte è sponsorizzata innanzitutto dall'Europa, che la chiede a gran voce da tempo, secondo poi dal Capo dello Stato, che in questo ultimo periodo della vita politica italiana è stato determinante per molte cose, meno per altre, legge elettorale per esempio, su cui ancora siamo in una fase di assoluto stallo. E quindi io credo che una legge anticorruzione in questo momento abbia buonissime probabilità di vedere la luce in poco tempo, anche perché alla legge anticorruzione è legata una delega al governo in cui il governo poi impedirebbe la presentazione dei candidati alle politiche che abbiano condanne passate in giudicato, cosa ritenuta in questo momento assolutamente fondamentale e largamente, anzi completamente condivisa da ogni forza politica. D'altra parte qui siamo in una situazione di eccezionale allarme per quanto riguarda la corruzione, cioè noi siamo arrivati a, ecco per esempio sull'evasione, siamo all'evasione 2.0, io non so se avete seguito la vicenda di Tributi Italia, in cui ormai non è che si evadono le tasse, si intascano quelle degli altri, insomma, quindi siamo a situazioni assolutamente paradossali. Massimo, l'Italia si appresta ad un ritorno alla politica, detto tra virgolette, pensi che questo ritorno possa presentare delle differenze rispetto alla politica, rispetto ai toni, agli aspri toni, alle divisioni che hanno caratterizzato la politica italiana fino al novembre dell'anno scorso, cioè fino al momento dell'insediamento del governo Monti? Sono un po' scettico su questa possibilità, ti devo dire la verità. Io vedo riemergere a mano che ci avviciniamo alla campagna elettorale temi di grandissima divisione, che sì, potrebbero rientrare poi una volta, diciamo, fatte le elezioni e con un governo che comunque dovrà fronteggiare ancora un periodo non si sa quanto lungo di grande difficoltà, però temo che i toni sguaiati e insomma qualche volta anche volgari a cui abbiamo assistito nelle ultime tornate elettorali li riascolteremo sia da parte della politica sia da parte di quella che è antipolitica, però che mira evidentemente a entrare balzosamente con numeri importanti in Parlamento, e mi riferisco al Movimento 5 Stelle, non tanto ai suoi esponenti quanto al suo leader, che insomma in questi ultimi mesi ha usato e abusato di parole certo non particolarmente rispettose, diciamo, degli avversari politici, perché di questo si tratta. Ormai Grillo è un personaggio della politica e quindi poi o dentro o fuori, insomma, diventa difficile diciamo astrarsi da un contesto a questo punto. Massimo, io avrei un'ultima domanda. Prima tu dicevi che la legge anticorruzione è sponsorizzata dall'Europa. Mi volevo riallacciare a questa sponsorizzata dall'Europa. Ultimamente c'è molto malumore, si leggono diversi titoli, magari anche demagogici, contro l'Europa, contro l'euro. Si parla molto spesso del governo di Bruxelles come qualcosa che impone misure ai Paesi membri, si parla della dittatura dell'Europa, o meglio della volontà di Berlino. Secondo te si potrebbe tornare ad una luna di miele con l'Unione Europea e l'euro? Ma io penso che l'Europa è stata l'Europa intesa come, non come, diciamo, entità ideale, ma come istituzione politica. Ha mancato molto nella gestione di questa crisi, non si è data alla sua origine, diciamo, dei meccanismi istituzionali che permettessero di combatterla in maniera efficace. Restano delle critiche assai fondate sulla nascita dell'euro e sulle istituzioni che l'hanno accompagnato, quindi la nascita di una banca centrale che non ha la possibilità di stampare monete e quindi effettivamente si priva, diciamo, di una parte del potere di una banca centrale nel definire e usare la politica monetaria. E queste sono critiche che rimangono e sono fuori da ogni polemica. Poi qui in Italia, ma credo anche altrove, insomma, si usa l'Europa un po' come un corollario di un atteggiamento di antipolitica. Grillo lo citavo prima, è uno di quelli che più violentemente si scaglia contro l'eurocrazia, ma insomma occasionalmente lo ha fatto spesso anche Silvio Berlusconi, insomma, che della politica italiana è stato protagonista per un buon quindicennio. È anche paradossale il fatto che, per esempio, Berlusconi poi non disdegni l'ipotesi di un Monti bis, ma ancora poche ore fa, pochi giorni fa, insomma, gridava improperi sull'Europa, sulla Germania, sulla possibilità che poi non sarebbe secondo lui un dramma che la Germania uscisse dall'euro. Avrete seguito poi la piccola polemica che si è sviluppata dalla cancelleria tedesca su questo tramite dei portavoce, ma insomma il sentimento antieuropeo è parte di un sentimento di sfiducia nella politica e nelle istituzioni che bisogna un po' tamponare con atti concreti e con decisioni tempestive e soprattutto con quel cammino che certo non sarà di brevissimo periodo né di breve periodo verso delle istituzioni europee che abbiano, diciamo, il crisma della democrazia ben stampato su di esse e ben impresso nella mente dei cittadini. Massimo, siamo giunti in chiusura al tempo che potevamo dedicare a questo tema. Un grazie dallo studio per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera. Ti auguriamo buon lavoro e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Grazie. Lo stesso a voi e grazie. Grazie ancora e buona serata. A risentirci alla settimana prossima. Buona serata. Buona serata a tutti.